Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Diciamo che potremmo insomma iniziare parlando di quella che è stata la giornata di ieri, nel senso che ci sono stati dei fermati, dei denunciati anche dopo la giornata del 14 novembre. Cosa è successo ieri? Allora, ieri è arrivata una buona notizia a metà, perché gli 8 ragazzi e ragazze che dopo la giornata del 14 erano ancora rinchiusi nelle patrie galere sono stati rilasciati nel corso della nottata di ieri. Questa è sicuramente una buona notizia. Purtroppo sono rilasciati con delle misure cautelari molto dure, perché sono costretti a firmare 3 volte al giorno. Quindi da una parte la gioia di averli potuti riabbracciare, dall'altra la tristezza di vederli ancora costretti a delle forme vessatorie e ingiustificate. Allora, si è parlato tanto dei capi di imputazione, sono girate nel corso della giornata da mercoledì a ieri parole, insomma anche cose formalmente non vere. Ci ricordaci un po' quali sono i capi di imputazione che sono stati a loro addebitati? Sì, vengono accusati di resistenza, danneggiamenti, lancio d'oggetti, violenza privata, travisamento. Ovviamente poi i capi di imputazione sono differenziati per le persone, però si articolano tutti intorno a questi 4 reati. Allora, diciamo che dopo il 14 novembre c'è stata subito un'assemblea all'università. E a mio sentire, diciamo così, vogliamo prima dire che comunque ci saranno degli appuntamenti in questa settimana, nel senso che gli studenti hanno deciso di ritornare comunque in piazza. Sabato mattina ci sarà una nuova invasione della città di Roma e anche degli appuntamenti in settimana. Sì, diciamo intanto che la nota più positiva forse del post 14 novembre è che la mattina dopo c'è stato subito un corteo spontaneo di studenti medi a Bravetta, che le scuole hanno continuato a occupare, che è continuata la mobilitazione in maniera trasversale e che, diciamo, l'effetto paura per il dispositivo messo in piazza dalla questura a Lungotevere è fallito in qualche misura, perché non è riuscito né a rallentare né tantomeno a fermare la mobilitazione. Alla luce di questo si sta ragionando di come partecipare a attraversare la giornata del 24 con la mattina lo sciopero di diverse sigle sindacali e come primo momento per riuscire a tornare nelle strade e nelle piazze di questa città. A questo proposito gli studenti medi, gli universitari, i precari e i docenti della scuola si sono dati un appuntamento per martedì pomeriggio alle 17 in un luogo che è ancora da definire, perché saremo ospitati da una scuola occupata e, come sapete, insomma, i tempi e le modalità di occupazione delle scuole non ci consentono in questo momento di indicare un luogo preciso, ma questa assemblea sarà preceduta invece da lunedì mattina da una giornata di agitazione e mobilitazione lanciata dagli studenti delle scuole, che è stata subito raccolta anche nelle università, che vedrà anche in altre città d'Italia momenti sia di denuncia di quello che è successo in piazza, sia di solidarietà attiva con gli arrestati identificati, ma anche di riproposizione di tutti i contenuti che quel giorno abbiamo portato in piazza e che da alcuni mesi caratterizzano le nostre iniziative, dall'opposizione al PD alla Prea per quello che riguarda le scuole secondarie, fino al rifiuto delle norme di austerity, ai tagli e sacrifici che questo governo tecnico vuole imporre tanto al mondo della formazione quanto agli altri comparti dello Stato sociale. Allora, quindi c'è stata comunque una risposta che se ne è detta anche nei giorni dopo, di paura e via dicendo. Comunque la risposta degli studenti è stata abbastanza, per fortuna, insomma, abbastanza puntuale, dalla mattina dopo e tutta questa settimana. Io, se vi andava, volevo un po' andare a riraccontare quella che è stata la giornata del 14 novembre, in cui, insomma, diciamo che sicuramente rispetto agli anni precedenti, penso anche all'ultimo movimento degli studenti che è stato quello dell'Onda, mai come in questo ultimo anno le proteste vengono principalmente dagli studenti medi. Mi sembra di ricordare, insomma, se non sbaglio, lo scorso anno ad ottobre, quando ci fu il divieto di manifestare da parte della giunta Alemanno, 3 novembre alla stazione Tiburtina. 3 novembre alla stazione Tiburtina, quindi è passato solo un anno, quando gli studenti, insomma, furono gli unici a protestare e a sfidare Alemanno sul blocco delle manifestazioni, cioè dell'obbligo di manifestare soltanto in determinate parti della città. Gli studenti delle scuole medie furono gli unici che contro, diciamo così, quello che accadde, cioè la Digos andò addirittura davanti alle scuole a obbligare, a dissuadere, a prendere per i capelli gli studenti e i genitori, a dire dovete rimanere, a minacciare. E sì, diciamo che ci fu lo schieramento della celere di fronte a 5 licei romani, e poi nel corso della giornata la Digos andò a prelevare addirittura registri di classe dentro per capire gli istituti, chi c'era, per minacciare eventuali denunce, ovviamente tutte minacce che poi non potrebbero. Cosa che in un certo senso è stata fatta anche adesso, perché in alcune scuole di Ostia, e immagino anche Ostia è stata, diciamo, il primo quartiere dove sono partite le occupazioni, tutte le scuole di Ostia quasi sono occupate, ci sono state segnalazioni poi verificate di carabinieri che si sono recati nelle scuole per prendere appunto i nomi degli assenti e poi chiedere comunque ai dirigenti e alle dirigenti i nomi in particolare dei cosiddetti caporioni. Eh sì, su questo mi viene da dire, insomma, si diceva che quest'anno forse come non mai il movimento parte dagli studenti e dai docenti delle scuole, e anche all'interno di questo, rispetto al 2008 ma anche al 2010, c'è una controtendenza, cioè forse questo è il primo anno che io mi ricordi che il movimento delle scuole e dei licei non parte dall'occupazione di licei storici del centro della città, ma parte proprio da Ostia, no? Cioè da istituti tecnici e dai licei di periferia. Vai Matteo, sì, l'unica cosa, scusate, che volevo finire era che in quella giornata, diciamo così, quindi è da comunque almeno un anno, se non, insomma, parlare anche del 14 dicembre, dove appunto la partecipazione degli studenti non fu poca, quindi è un anno da quelle intimidazioni in cui addirittura anche lì, e poi ne riparleremo, furono schedati, gli studenti furono chiusi alla stazione Tiburtina, e per liberarli furono costretti a farsi prendere dalle telecamere, non come in questo caso, e poi ne parleremo, con il documento a fianco alla faccia, di cui nessuno ne ha parlato, ma insomma soltanto con la faccia libera, c'è, cioè, pure qualcuno che si era coperto e via dicendo. Quindi da un anno a questa parte c'è un'opera, diciamo così, sistematica di repressione nei confronti degli studenti, eppure dopo un anno, siamo al 14 novembre del 2012, più di 50.000 studenti, perché principalmente gli studenti medici erano, il 14 novembre c'era l'università, però insomma, gli studenti medici erano protagonisti, scendono in piazza. Dici un po', insomma, quello che sta succedendo. Ma sì, sicuramente è una grossa soddisfazione vedere tanti numeri in piazza in una situazione politica del genere, che è sicuramente molto più complicato della situazione che c'era con la riforma Gelmini, nel senso, come abbiamo ripetuto tante volte, durante il governo Berlusconi c'era l'anti-berlusconismo del soggetto che andava in TV, che insomma i vari scandali sessuali e non, eccetera, e allora era facile individuare una controparte e perciò anche aggregare intorno a quello. E adesso in realtà è molto più difficile individuare una controparte così evidente, ma bisogna fare un lavoro d'analisi molto, molto più attento, individuare nel governo Monti, in generale nelle politiche economiche europee, una controparte, e trovare appunto il soggetto che va a ledere le varie parti delle istituzioni pubbliche come la scuola, la sanità e le varie altre parti. E siamo riusciti a fare questo lavoro perché ma in realtà è un po' difficile in realtà andare a capire il meccanismo che c'è dietro a quei 50.000 studenti che sono riusciti a scendere in piazza il 14. Probabilmente piano piano hanno sentito a pelle i vari provvedimenti che ci sono stati sulla scuola, perciò a partire dalla mancanza di spazi di aggregazione, a partire dalla maggiore rigidità da parte di dirigenti e della dirigenza della scuola in quanto ad attività proposte da studenti, alla libertà di partecipare attivamente alla scuola, e credo che questo abbia aggregato molto. Dopodiché non so se vogliamo passare a un racconto. Beh, sicuramente il fatto che nella città di Roma comunque le periferie, ecco, come diceva anche Pietro prima, cioè per la nel senso che da sempre i licei più all'avanguardia sono stati il Mamiani, il Virgilio, posso pensare, insomma, quindi al centro di Roma, per la prima, proprio perché forse non c'è più un obiettivo di una riforma in quest'ultimo anno, secondo me questo è un passaggio molto importante, anche più difficile da, e questo il 14 novembre un po' l'ha dimostrato, un po' più difficile da controllare, da tenere, insomma, da gestire, gestire. Però sicuramente il fatto che non ci sia una richiesta specifica, per cui ci possono essere degli incontri istituzionali per quello, ci possono essere delle richieste da parte degli studenti su quello, il fatto che si parli per la prima volta di un sistema economico generale, che poi non venga identificato il capitalismo, però un sistema economico generale, ma con Monti, va bene. E quindi in questo sicuramente la periferia di Roma è quella che subisce di più. Sì, questo. Quello che a me sembra, che un pochino la ricasco anche se in proporzioni sicuramente differenti, sta avvenendo anche nell'università, è che più di un movimento che lavora sul futuro, sulle prospettive di trasformazione della scuola, sia un movimento che si confronta con gli effetti devastanti di vent'anni di politiche di tagli e di privatizzazione degli istituti. Cioè quello che abbiamo trovato andando appunto a incontrare gli studenti di Ostia nelle loro scuole occupate è il deserto costruito in realtà da vent'anni di definanziamento, da vent'anni di mancanza di turnover nella classe docente, di danni ormai strutturali e permanenti. Quando Matteo parlava di mancanza di luoghi d'aggregazione, di socialità e di possibilità di condivisione dentro le scuole, quando parlava insomma di dirigenti scolastici più rigidi, altro che non parla degli effetti perversi di una riforma dell'autonomia scolastica ormai arrivata alle sue ultime declinazioni, che inizia a essere evidentemente ingestibilità e infrequentabilità della scuola per quello che sono gli studenti, il personale ATA e i docenti. Quindi il 14 novembre insomma si scende in piazza, si danno questi due appuntamenti, uno a Piramide e uno al piazzale Aldo Moro, quindi uno praticamente partendo, diciamo così, dall'università come un luogo di incontro tra i medi e chi non è più a scuola tipo me insomma, e invece un luogo un po' molto più giovane che è la Piramide. Insomma, raccontateci un po' cosa è successo. Dunque, da Piramide è partito il concentramento, diciamo, più ampio degli studenti medi, punto non particolarmente simbolico ma più a livello pratico, punto più vicino agli studenti ostiensi che ci hanno raggiunto in massa in quella giornata. Dopodiché si è partiti cercando di raggiungere il corteo dell'università e passando perciò per Viale Ventino, Circo Massimo, il Colosseo, e poi ci siamo incontrati ai Fori Imperiali. Lì appunto il corteo si è unito e a livello pratico e a livello simbolico si è intersecato realmente, cioè si è prodotto un corteo veramente misto tra studenti medi universitari, che a mio parere appunto simbolicamente ha rappresentato l'unione che si è formata quest'anno, e anche gli alcuni docenti, insomma, ce li mettiamoceli questi docenti, sì, sicuramente sì. I docenti non sono scesi in massa ma qui c'è da dire che questo coordinamento delle scuole romane insomma un po' è nato un po' sull'onda della questione delle 24 ore di lezione, no? Rientrata questa, io è un mio giudizio personale, il comunicato che potete trovare in rete fatto ieri dal coordinamento, potete trovare sul sito del coordinamento delle scuole di Roma, già dà un'idea di come anche questo ritiro delle 24 ore abbia però caratterizzato in un certo senso meglio il coordinamento stesso, perché questo comunicato è una mediazione ovviamente, però è importante perché dà piena solidarietà a studenti e studentesse e ne rivendica, era di ieri, l'immediata scarcerazione, ovviamente anche condannando le modalità di intervento da parte della polizia. Quindi sicuramente questo è un fatto importante, perché non credo che a questo livello, al di là di sigle sindacali di base soprattutto, ovviamente negli anni scorsi era successo. Il coordinamento ha scelto di stare a Piramide o a piazzale Aldo Moro, poi chi voleva ha anche dato l'indicazione di andare con la CGIL, ma dati i numeri mi sembra che non è che abbia avuto un grande successo questo appuntamento. Quindi è la saldatura, ma non solo sulla questione della situazione della scuola, una saldatura fra, che poi negli anni si è, cioè non è che non è mai successo ovviamente, però dobbiamo risalire a parecchi anni fa, che ci sia una saldatura fra il mondo del lavoro e il mondo degli studenti, come diceva Matteo giustamente, è proprio perché la contraddizione non è quella di essere anti-berlusconiani o contro il governo o soltanto su proposte alternative di riforma della scuola, ma è proprio una consapevolezza che qui l'attacco è generale, l'attacco che le politiche europee fanno alle condizioni di vita dei lavoratori e ovviamente di tutti gli altri e le altre. Allora, c'è una telefonata, ciao. Pronto? Oddio, scusami, sì, ciao. Ecco, aspetta che... Ok, vai. Ciao, buongiorno. No, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda la partecipazione dei docenti al corteo di mercoledì. Perché in realtà, secondo me, la partecipazione al corteo è stata abbastanza ampia, tenendo conto anche che negli ultimi anni non ci partecipava nessuno agli scioperi da parte della mia categoria di lavoro, insomma, tenendo... Io ero a Piazza della Repubblica, ho aspettato il corteo degli studenti che arrivava da Aldo Moro e lì si è verificata una cosa e secondo me ci si potrebbe un po' riflettere anche, cioè che la maggior parte dei docenti che erano in piazza a quel punto non hanno fatto il corteo con le sigle sindacali, ma l'hanno fatto in mezzo agli studenti. Anche per questo secondo me se ne vedeva poco la partecipazione, cioè quando io sono arrivata a Piazza della Repubblica c'era il concentramento dei Cobas e a parte insomma le bandiere dei Cobas e gli striscioni c'era tutto il resto delle persone che c'erano, erano insegnanti con gli striscioni delle scuole, con i cartelloni eccetera, ed erano parecchi insomma per quel concentramento. Nel momento in cui è arrivato il corteo degli studenti, gli insegnanti non sono rimasti con Cobas in quel caso, ma si sono sciolti diciamo nel mare degli studenti che passavano. E siccome fra l'altro mercoledì era uno sciopero generale e in piazza di lavoratori e lavoratrici non se n'è visto. Non c'erano, infatti, questo è secondo me un grosso limite. È un grosso limite e anche una cosa su cui riflettere, perché certo, insomma era uno sciopero quello di mercoledì. Il fatto che chi c'era, cioè la scuola, a mio parere è tirata non solo dalla situazione ovviamente che, ma anche dalla manifestazione, c'era stato il sabato prima, c'era... quindi insomma un momento. Beh, c'è sicuramente un percorso, l'unico percorso, esatto, diciamo così, un po' più politico di coesione è la scuola in questo momento. Però di fatto quello che volevo dire è che i lavoratori e le lavoratrici della scuola mercoledì non sono stati dietro le bandiere dei sindacati, nemmeno dei sindacati di base, ma si sono sciolti. Questo, ecco, volevo dire. Grazie. E questo insomma un po' ci introduce all'argomento un po' che anche volevo toccare con voi, nel senso che a un certo punto io ho visto insomma un corteo molto lento, no? Cioè per fare 4 chilometri ci abbiamo messo 4 ore, che anche insomma con caldo, insomma Roma era sicuramente una città molto accogliente in quel momento perché faceva anche molto caldo e via dicendo. A un certo punto ci sei stato molto a Largo Ricci, cioè all'incrocio fra via dei Fori Imperiali e via Cavour. Probabilmente io ho pensato per capire se tornare indietro verso Piramide o andare verso Piazza Venezia, dove ovviamente era pieno di polizia, erano le vie erano tutte chiuse, si sarebbe entrato in quel vortice in cui poi ci si è andati a finire, di essere scortati e in qualche maniera incanalati nel percorso da un imponente schieramento di forze dell'ordine. Cosa è successo a Largo Ricci? Cioè, c'è stato l'incontro tra gli studenti medi e universitari di questi due cortei? Ha portato una discussione? C'era un percorso già deciso? Ma io credo che quella sosta prolungata sia stato un po' un effetto collaterale dell'auto-organizzazione e del fatto che quella giornata fosse appunto espressione di queste pratiche di cui un po' ci vantiamo da tempo, perciò sì, c'è stato quei lunghi minuti in cui c'è stato da discutere, da comporre il servizio d'ordine comune tra medi universitari che ci ha fatto perdere un po' di tempo. Dopodiché appunto si è deciso di continuare anche perché praticamente diciamo ribaltare un corteo così ampio e tornare indietro sarebbe stato piuttosto complicato. Abbiamo deciso di continuare e poi lo vedremo più tardi di proseguire anche oltre il limite che in quel momento era stato posto. Ci si è riversati su Piazza Venezia, luogo dove teoricamente ci si sarebbe dovuti fermare per rispettare i limiti imposti dalla questura. Poi in realtà si è deciso di continuare per il Teatro Marcello e poi alla fine, diciamo a bocca della verità, si è deciso di girare sul Lungotevere per di nuovo puntare al centro, ai palazzi del potere a cui si punta da diverso tempo. si è fatto tutto il Lungotevere fino al punto fatidico all'altezza di Ponte Sisto, e lì è accaduto l'accaduto di cui più si è parlato su tutti i giornali. Mo ci arriviamo. Io una cosa che volevo dire anche rispetto a quello che diceva Elena è che è vero quello che lei dice, però invece la mia sensazione è stata che a Piazza Venezia invece parte, diciamo così, più visto che appunto fino a Piazza Venezia più o meno il corteo era concordato, visto che Cobas avevano comunque la sede di Piazza Santissimi Apostoli, visto che era stato autorizzato un presidio a Montecitorio. Leggendo un po' in rete ho letto di diversi docenti che si lamentavano del fatto che avessero deciso di abbandonare il corteo degli studenti per recarsi verso Montecitorio, quindi in qualche maniera c'è stato solo da Piazza Esedra a Piazza Venezia forse un corteo anche con l'apparato scolastico dei docenti, perché a Piazza Venezia, secondo me, anche leggendo appunto, una parte si è staccata perché voleva andare a Montecitorio, dove poi peraltro neanche ai docenti in maniera singola o comunque neanche a chi singolarmente aveva approvato a piedi nelle vie eccetera ad andare a Montecitorio gli è stato mai permesso di arrivarci. Quindi loro si lamentavano anche del fatto che ok, allora a quel punto era meglio se stavamo con gli studenti. Questo, insomma, sono commenti in rete, principalmente anche a articoli che sono usciti sui giornali terribili, in particolare, insomma, questo era in risposta a un articolo di Telese su Pubblico, veramente allucinante, e diversi docenti gli hanno risposto questa questione qua. Quindi, insomma, questo, insomma, un po' per fare dei punti. Quindi siamo arrivati, insomma, sul Lungotevere. Sì. Lì appunto si è arrivati a Ponte Sisto, dove il limite che già era stato posto dalla questura si è trasformato in realtà, cioè le camion, i blindati della polizia si sono messi di traverso e è sceso il reparto celere formando i cordoni. Alla testa del corteo si è formata la famosa testuggine del servizio d'ordine misto tra studenti medi e studenti universitari, che era intento a preservare la sicurezza del corteo in toto, e perciò anche dei più piccoli studenti medi che erano scesi in massa in quella giornata. Lì praticamente seduta stante, insomma, nel giro di pochi minuti è partita la prima carica. La prima carica con una rincorsa di almeno un centinaio di metri, che perciò inevitabilmente ha spezzato i cordoni degli studenti, e lì è partito un po' il caos generale, appunto perché il centro del cordone era stato infranto e la polizia si era infiltrata anche diciamo ai lati del corteo. Sì, diciamo un paio di cose su questa carica. La prima cosa che a me mi ha lasciato parecchio stupito è che, rispetto alla modalità solida con cui abbiamo visto lavorare la polizia in questa città, è stata una carica un pochino inedita, nel senso che non c'è stato un fronteggiamento centrale tra due linee, ma c'è stato sostanzialmente un capovolgimento di ruoli, cioè gli studenti schierati su una linea con degli scudi e tutto quanto, e invece i gruppetti di poliziotti, in particolare concentrati su due ale, una sul centro spostata un po' a sinistra e una invece tutta sulla destra, che più o meno è una dinamica da rissa da bar, cioè pugni, manganellate senza neanche utilizzare gli scudi, ha provato a infrangere. In genere quello che succede al contrario, cioè degli scudi compatti da parte della polizia e studenti in ordine sparso che provano a forzare quel blocco. La seconda considerazione che a me viene da fare è che già dal primo momento dell'impatto, già attraverso l'uso dei gas lacrimogeni direttamente sulla testa e poi su tutta la lunghezza del corteo, fino poi ad arrivare, insomma, alle cariche laterali, agli spezzamenti, agli inseguimenti, è stato da subito chiaro che l'obiettivo della questura in quel momento, di quella manovra di piazza, non era tanto limitare la possibilità di uno sfondamento o inibire il proseguimento del corteo, quanto da subito di scioglierlo. Cioè, di fronte a un corteo di migliaia di persone, la questura ha puntato da subito con convinzione allo scioglimento, e questo, insomma, poi nel corso della giornata diventerà mano a mano sempre più evidente. Ma a me quello che, insomma, ci è venuto da riflettere all'università nelle ore successive è che sembra evidente che la polizia non si accolla più in qualche misura a un fronteggiamento che non sia risolutivo. Forse sulla scorta di splendide giornate autunnali dei due anni precedenti c'è una sorta di consapevolezza da parte del Ministero degli Interni o di chi di loro che lo scontro, quando sono tenuti o quando hanno intenzione di affrontarlo, devono affrontarlo direttamente per sciogliere chi hanno di fronte. Allora, in questo una considerazione che mi viene sempre di più, diciamo sicuramente forse più chiara, insomma era chiara il 14 dicembre, secondo me lo è stata anche il 15 ottobre, ed è il concetto di rappresentanza nella piazza e del, diciamo così, delle mediazioni piuttosto che le contrattazioni in piazza. Mi sembra insomma sempre più palese, tu hai usato questo aggettivo, che rissa da bar, insomma io me lo so visto abbastanza le cariche, mi so seguita abbastanza il corteo, e oggettivamente la cosa che più dà fastidio, ma più che altro, è questo atteggiamento che avevamo visto già anche il 5 ottobre a piazza, a Piramide, sempre contro gli studenti medi, di proprio di minacce personali, di continue botte personali, cioè di un atteggiamento aggressivo, ma non di sto sciogliendo semplicemente un corteo, ma di prepotenza e di proprio rissa da bar, con delle proposizioni e degli insulti che veramente, insomma, neanche il peggio Borgataro de provincia mi direbbe quando se stiamo a scontrare, insomma un livello che io ho trovato, insomma, per delle, comunque vogliamo che si voglia o no, una pubblica amministrazione, perché queste sono le forze dell'ordine, fino a che adesso forse cambieranno, però per ora siamo a questo. Comunque l'immagine istituzionale, che ormai è l'unica immagine delle istituzioni che nella piazza ci sono, visto che non ci sono più mediazioni politiche, non ci sono i partiti, non ci sono i sindacati, in quel corteo non c'erano i partiti, non c'erano i sindacati, non c'erano bandiere di nessun tipo, tranne una bandiera palestinese sventolata davanti alla sinagoga, non c'era diciamo così null'altro, anche di rappresentanza. E quindi evidentemente questa cosa, insomma, mi sembra sempre più palese un cambiamento della gestione dell'ordine pubblico, in cui si va quasi a uno scontro fisico personale. Sì, a me insomma, per nel 2010, il movimento del 2010 è stato abituato un pochino prima di Piazza del Popolo, poi Piazza del Popolo, questo dispositivo ha evidentemente funzionato meno per la controparte. Sostanzialmente, di fronte a un fronteggiamento della testa del corteo, la polizia da una parte prova a contenere quella roba, principalmente puntando a non farti sfondare più che a entrare nelle file dei manifestanti, anche per paura, e poi a separare chi sta facendo quella roba dal resto del corteo, cioè i famosi lanci di lacrimogeni a pioggia, che tendono a separare la testa o chi comunque sta praticando un momento di scontro dal resto della massa. Questo, insomma, sul Lungotevere non si è visto minimamente, perché anche rispetto appunto a protocolli che noi pensavamo abbastanza fissi, abbiamo visto la polizia anche a gruppetti, cioè a gruppi di 6-7 cellerini, infilarsi tra le file dei manifestanti con molto ardore, e appunto un obiettivo che da subito è stato tutto il corteo, anche sulle fluire, il video famoso che poi è uscito nella giornata di ieri o dell'altro ieri, non mi ricordo, del Ministero di Grazia e Giustizia, dove lanciano i lacrimogeni, non è tanto il video di un'assurdità, di un colpo di coda di due matti che dal terzo piano lanciano i lacrimogeni di fronte a degli studenti che si vede evidentemente dediti a cambiare strada e allontanarsi il più rapidamente possibile dal luogo degli scontri, ma è la cifra della giornata, cioè quello che si è ripetuto poi nei vicoli di Trastevere, è quello che è andato avanti per più di un'ora lungo il Lungotevere fino all'altezza di Porta Portese, è quello che è continuato nei vicoli del ghetto ebraico, a Piazza Farnese, al ghetto e a Campo dei Fiori. Va bene, ci ritorniamo, c'è una telefonata, ciao. Ciao, saluto a tutti in studio e agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Qualche così punto interrogativo, qualche considerazione che vale delle, diciamo, degli interrogativi, delle domande lì ai compagni che sono presenti. E intanto io credo che ci sia da sottolineare un fatto rispetto al 14, visto che era comunque una giornata internazionale convocata dalla CES, quindi da sigle ufficiali, tra l'altro, insomma, la CES non è che sia il massimo dei massimi, a cui la CGIL però aveva aderito. Ora, la rappresentazione che si ha dei numeri, non solo a Roma ma da tutte le parti d'Italia, insomma, sono state parecchie le città in mobilitazione, oltre che, insomma, ci si possono aggiungere le città spagnole, portoghesi, insomma Spagna, Portogallo eccetera, ma per quanto riguarda l'Italia sicuramente i numeri dei partecipanti dimostrano che la presenza degli studenti, e non solo degli studenti, ma insomma di settori non organizzati e non riconducibili a quelle che sono le sigle, in questo caso la CGIL, cioè i detentori dell'ufficialità di quella giornata, sono enormemente superiori. Quindi un dato sicuramente positivo che la convocazione di quella giornata rispetto agli obiettivi che aveva è stata in qualche modo cambiata, per non dire stravolta, e quindi con un segnale proprio di rifiuto totale di quelle che sono le politiche generali e quindi di, tra virgolette, di insubordinazione a quelle, anche a quelli che sono i canoni tradizionali del manifestare, eccetera eccetera. Quindi da questo a me viene una domanda da fare, no, ai compagni: visto questi numeri e vista questa grossissima presenza, io capisco che l'attrazione dei centri del potere diventa, insomma, non solo simbolicamente ma anche materialmente diventa quasi una mania, una persecuzione. Dice, bisogna arrivarci in questo paese, a differenza di tanti altri paesi, insomma, non è concesso arrivare vicino ai palazzi del potere, bisogna arrivarci a tutti i costi. Però poi bisogna fare anche, credo, i conti con la situazione reale in piazza, insomma. E allora io mi domando, una volta arrivati a Lungotevere, che non è il migliore delle strade per quanto riguarda, insomma, la difesa, l'incolumità del corteo, dei manifestanti, eccetera, perché non si è riusciti a contrattare, per esempio, una destinazione sul posto, con le forze di polizia, con la questura, che non portasse a quella situazione? Perché dico questo? Non tanto perché fai presto a dirlo col senno di poi o non stando lì, perché insomma Lungotevere è un budello, il divieto era assoluto, lo schieramento mi è sembrato, insomma, è molto chiaro da parte delle forze dell'ordine. A quel punto perché poi costringerci tutti il giorno dopo a ragionare sulle botte, sui candelotti, su quanto la polizia è cattiva, eccetera eccetera, perdendo di vista quello che dicevo prima, cioè il dato significativo che quella scadenza è stata enormemente sopravanzata dai numeri, dai contenuti che sono stati portati dagli studenti, in particolare dagli studenti medi. Sulla polizia, per cui oggi ci troviamo di nuovo a ragionare, come spesso succede, su quanto è cattiva la polizia, no? Sulla polizia, sul comportamento, insomma, Pietro diceva adesso, dice, diversamente da altre volte, con un atteggiamento, insomma, c'è stato un particolare atteggiamento rispetto anche a giornate precedenti, come sono state il 14 dicembre e anche il 15 ottobre. Beh, io credo che di mezzo non va dimenticato, ma c'è la sentenza della Diaz, perché la sentenza della Diaz è che generalmente, non dico totalmente, ma generalmente è stata salutata come una sentenza in cui la polizia è stata condannata. Io insisto nel fare questa distinzione: sono stati condannati i vertici con una situazione per cui il danno che ne hanno ricevuto è stato molto relativo, ma sono stati completamente non toccati, per non dire assolti, perché poi lì c'è stata la prescrizione, i singoli poliziotti, e questo ha sicuramente dato alla figura del poliziotto una sorta di incolumità. Cioè io ho sempre detto e credo che vedere quelle scene che si sono riviste anche il 14, cioè di quella insistenza nel picchiare uno che sta a terra ormai fermo, arrestato, immobilizzato, o altre situazioni del genere, non sta scritto, io credo, nei manuali di polizia, né glielo dicono i dirigenti ai poliziotti di comportarsi così. Lì c'è evidentemente un atteggiamento personale che poi qualcuno può pure spiegare con la tensione, con tutto quello che vi pare, però siccome è ripetuto nel tempo, significa che se lo seguitano, insomma, a praticare in questo modo, eccetera eccetera, c'è qualcosa proprio che è insito nell'atteggiamento della persona che in quel momento si comporta così. E io ripeto, non credo che la sentenza della Diaz, che ha mandato assolti completamente i singoli poliziotti che erano stati in qualche modo incriminati e messi sotto processo, si sia senza conseguenze. Perché... No, infatti, perfetto. Concludo con l'ultima cosa. Come ulteriore domanda, insomma, cerchiamo di fare una riflessione anche che non sia solo la riflessione su quanto è cattiva la polizia e viceversa sulle dinamiche interne al movimento, insomma, perché poi se no qui ricordo che dopo il 15 ottobre se c'è fu una presa di posizione pesante fu proprio quella che avvenne al Cinema Palazzo, insomma, no, dove si parlò pesantemente contro chi si era contro certi comportamenti di piazza, eccetera eccetera, insomma, quindi ritrovarsi magari oggi in certe situazioni analoghe, insomma, senza che sembra che tutto sia passato in vano, insomma, viceversa, credo che ancora qualche elemento di riflessione su questo possa essere sviluppato, insomma, ecco, volevo sentire che ne pensavano anche i compagni lì. Grazie. Grazie a te. Insomma, Giorgio ha messo sul piatto una serie di elementi, provo a ricapitolarli in ordine. La prima cosa che mi viene da dire, insomma, che in quello che dicevo prima non c'è da fare una graduatoria su quando la polizia è più buona o quando è più cattiva. Si parla di atteggiamenti in caso differenti, nel senso che non penso che la polizia il 15 ottobre o anche il 30 novembre del 2010 in altre occasioni sia stata più buona, semplicemente messo in campo uno schema d'attacco che conoscevamo meglio, che a quella piazza era un pochino più abituata, in qualche forma più consueto, e quindi in qualche maniera che è stato più facilmente affrontabile dai manifestanti. Quello che è successo invece il 14 non è sicuramente una roba inedita, ma sicuramente una roba meno consueta, che è successa di meno negli ultimi anni, cioè, insomma, cariche laterali a cortei così grandi io sinceramente non me ne ricordo. Quindi, insomma, non si tratta di dire che la polizia sia buona o cattiva, si tratta però di riconoscere che sicuramente rispetto a un atteggiamento, rispetto a una certa maniera di andare in piazza, ne hanno scelta un'altra. E perché non si è contrattato ad andare da un'altra parte? Sì, diciamo che lì il discorso è stato che la trappola è stata fatta bene dalla questura, nel senso che il problema forse a questo punto, col senno di poi, sarebbe stato non imboccare proprio il Lungotevere, perché poi in realtà una volta imboccati il Lungotevere, una volta arrivato a quel punto, non c'è stato nessun tipo di interlocuzione né spazio per interlocuzione tale, cioè la polizia ci ha sostanzialmente fatto credere che arrivati sul Lungotevere più o meno almeno fino all'altezza di via Tomacelli, insomma fino all'altezza del ponte di Castel Sant'Angelo, avremmo avuto un momento di avvicinamento al Parlamento ulteriore, e di fatto ci ha bloccato prima in un punto in cui non eravamo particolarmente vicini ai palazzi del potere, non era sicuramente il punto più vicino che il corteo aveva toccato, e lì, diciamo, le figure predisposte alla questura, alla mediazione dei manifestanti sono completamente scomparse. È chiaro che un corteo dentro un imbuto è difficile da girare, un corteo che comunque ha annunciato per giorni che vuole praticare un certo tipo di obiettivo è difficile da reindirizzare, un corteo comunque di un movimento sostanzialmente nuovo che per la prima volta scendeva in piazza con quell'estensione, difficilmente poteva fare altre scelte. È chiaro, col senno di poi non bisognava prendere il Lungotevere, ma purtroppo non c'è stato così chiaro sul momento. E invece rispetto al 16 ottobre, 15 ottobre, quindi il giorno dopo, in cui c'è stata ovviamente nella città di Roma delle prese di posizioni abbastanza, anche scritte, insomma, abbastanza chiare su quello che andava o non andava fatto nelle piazze, anche, insomma, in una partecipazione sicuramente, insomma, un corteo diverso, perché un corteo nazionale che non prevedeva soltanto, che prevedeva invece molte sigle al contrario di queste, e anche non solo gli studenti, però diciamo cosa è successo. Guarda, io quello che mi viene da dire, non so se è tutto imputabile a questa roba qua, all'assemblea del Cinema Palazzo, mi sembra anche un pochino riduttivo, però è un dato di fatto, secondo me, che il 14 novembre un certo tipo di eccellenza è mancata in piazza, cioè che quello che negli autunni precedenti abbiamo catalizzato è stato presente con noi nella piazza del 14 novembre in maniera molto molto molto molto minore, cioè quelle centinaia e centinaia di persone che a Piazza del Popolo hanno caricato la polizia su via del Babbuino e di via del Corso, quelle migliaia di persone che hanno resistito alla carica prima su via Merulana e poi fino a dentro piazza San Giovanni per arrivare fino a piazza Re di Roma, noi le abbiamo viste in una piazza che sicuramente non aveva una caratteristica nazionale, ma che neanche dal tessuto sociale romano è riuscito a catalizzare quella roba, una piazza sicuramente lanciata con meno tempo, con meno aspettative, da soggetti differenti, con una composizione molto più marcatamente studentesca rispetto alle altre, ma comunque una piazza che ha annunciato di andare sotto al Parlamento, che ha annunciato un certo grado di determinazione, insomma alcuni degli elementi che negli anni passati avevano fatto sì che alcuni cortei, alcune piazze riuscissero a intrecciare un altro tipo di partecipazione, c'erano e ugualmente non si sono dati, quindi sicuramente una riflessione sul post 15 ottobre può aver inciso anche su questo aspetto. E per quanto riguarda, insomma, non so se volevamo finire di raccontare un po' quello che è successo invece al corteo, visto, insomma, sì, queste sono appunto riflessioni che anche queste andrebbero, insomma, un po' più sviluppate, però io vorrei un po' finire ma anche di raccontare quello che è successo, per cui parte questa carica, una grossa componente del corteo, una parte del corteo viene spezzata, quindi si dirige verso via Renula. Sì. C'è una parte del corteo che, a questo punto bisogna non dare niente per scontato, perché insomma raccontando e solo ascoltando magari non si capisce bene qual era lo schema della polizia in piazza. Comunque c'è stata una prima carica frontale da Ponte Sisto, arretrando il corteo si è trovato bloccato da un altro cordone di polizia, che perciò aveva fatto effettivamente proprio una gabbia, non si poteva passare né avanti e né dietro, si poteva passare solo al lato di questo cordone, diciamo, cercando di fare velocemente ed essere fortunati per evitare di beccarsi una manganellata dall'ultimo poliziotto del cordone. Lì c'è stata poi una carica che ha spezzato nei vari gruppetti il corteo, un gruppo che è andato verso via Renula e poi si è riuscito a defilare verso Campo dei Fiori e Piazza Farnese, un altro gruppo che invece ha attraversato Ponte Garibaldi e poi ha arretrato, diciamo, riformando una piccola testa del corteo, è arrivata fino a Ponte Sublicio, perciò a Porta Portese, dove c'è stato il gruppo di quel centinaio di persone bloccato dalla polizia e poi identificato, di cui si è molto parlato, e poi, se non sbaglio, un altro gruppo dall'altra parte del Lungotevere, perciò dalla parte del ghetto. Questo qui immagino che fosse, insomma, anzi, senza immaginare, era sicuramente tutto quanto nel piano della polizia, di nuovo è ricollegabile all'obiettivo di cui parlava Pietro, che era quello di partire con l'intento di sciogliere interamente il corteo e non di contenerlo o in certi luoghi. Continuo. Ma più o meno quello che è successo dunque è questo a livello pratico. Poi diciamo, adesso ho riassunto abbastanza velocemente, ma quando è stato spezzato il corteo ci sono stati diversi caroselli con i blindati della polizia sul ponte, perciò insomma anche abbastanza pericolosi, perché appunto su un ponte, che vuol dire che sotto c'era un fiume in piena e non tanto pulito e dopodiché anche ulteriori cariche sul Lungotevere, che hanno spinto verso Porta Portese, e lì quel centinaio di persone che poi sono state tutte quante identificate. Ma io volevo tornare un po' sulla questione di qualche minuto fa, no? Un po' sul ragionamento post 15 ottobre eccetera. È pur vero quello che diceva Pietro, però è vero anche che all'indomani del 15 ottobre in particolare c'è stata comunque una presa di posizione di diverse organizzazioni e sindacati di base, che hanno appunto condannato senza se e senza ma, tanto che sono un'espressione cara ad alcuni, quello che era successo, senza nemmeno cercare di fare lo sforzo sociologico, ecco, se non altro, se non politico, di capire il perché di quello che era accaduto, e attestandosi su un atteggiamento che è comunque quello completamente diverso e che comincia ad essere molto vicino ad atteggiamenti, so che sto dicendo una cosa forse un po' pesante per qualcuno, ma insomma è una mia opinione personale, che è quello comunque dell'isolamento dei violenti, del rifiuto della violenza, quindi stando in categorie che certamente a noi non appartengono. E questo si è visto anche nel corteo, per esempio, del 27 ottobre, dove uno dei slogan principali era superare la sindrome del 15 ottobre dell'altro anno, e un atteggiamento che poi porta a fare, anche al di là della questione giustamente sollevata, ma poi a arrivassi i palazzi del potere può avere significato o non può avere significato in una realtà di piazza come quella che abbiamo vissuto il 14, però certamente va anche detto che mentre il corteo degli studenti, chiamiamolo così perché sicuramente non, per fortuna non erano solo loro, ma insomma cercava di muoversi e di dare un senso anche a un corteo di 50.000 persone, c'era chi continuava a trattare per arrivare ma alla spicciolata a Piazza Montecitorio. Insomma, queste sono, sì mi fermo, sono considerazioni che io mi sento di fare. Allora sì, infatti continui. Oddio no, è cascata la telefonata, quindi invitiamo chi ci stava chi ci aveva provato a chiamare a richiamare di nuovo, perché c'era una telefonata in corso, non so se insomma, si vuole. Sì, a me quello che mi viene da dire, insomma, ci siamo un pochino girati intorno, mi pare, nella serie di interventi che abbiamo fatto oggi. Cristina prima parlava della fine della possibilità di mediazione in piazza, Giorgio parlava, a me sembra evidente in qualche forma che la giornata del 14 una scusami volta... se ti interrompo, facciamo parlare prima la persona, ciao, che sta al telefono e poi ciao, sei in onda. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Seguito solo gli ultimi 15 minuti della trasmissione, insomma. E io ritengo, vabbè, innanzitutto credo che la violenza delle forze dell'ordine sia stata un elemento importante, insomma, no? Mi sembra che per tutto l'arco della settimana la polizia abbia anche sottovalutato invece un altro elemento che comunque si accompagna a quella giornata, cioè fa il paio con questa giornata, cioè il divieto d'accesso a Montecitorio, insomma. E questo divieto d'accesso, fermo restando che i compagni e le compagne che sono militanti di strutture lo possono, diciamo così, giudicare come un elemento naturale dello Stato e di questi apparati che impediscono alla gente, insomma, ai movimenti di esprimersi sotto i propri palazzi. Questa cosa qui è un elemento importante rispetto invece ad alcune migliaia di lavoratori e di lavoratrici che hanno partecipato a vario titolo a quella la manifestazione oceanica degli studenti, un po' perché hanno aderito allo sciopero e quindi sono stati nella parte dei COBAS che era in fondo al corteo, in parte perché hanno seguito i loro studenti, i figli, eccetera, eccetera. Insomma, questa cosa qui, agli occhi di queste persone che poi comunque a vario titolo hanno provato ad entrare dentro quella piazza, piazza Montecitorio, in mezzo alle forche gaudine, solamente in cento, eccetera, è stato forse l'elemento che insieme alle immagini dei lacrimogeni, insieme alle immagini delle botte, eccetera, eccetera, hanno sicuramente smontato e stanno cambiando sicuramente l'atteggiamento dei media nei confronti di quella manifestazione, dal di là di qualche politico, qualche partito politico che ancora contribuisce a tenere alta questa bandierina del sostegno alle forze dell'ordine. Detto questo, c'è una riflessione che secondo me i compagni e le compagne non fanno mai, non hanno fatto sul 14, non hanno fatto in alcune occasioni precedenti, sull'uso e sulle modalità di stare in piazza e sull'utilità di alcune forme, fermo restando che nessuno può insegnare o dare un'indicazione a un soggetto sociale che si autodetermina con le proprie assemblee, con le proprie riunioni, con le proprie forme organizzative di scegliere delle forme. Il problema è capire se queste forme sono, alla luce di questi divieti, come dire, attuali, attuabili, riproducibili, discorrendo, insomma. Non concordo assolutamente sulla questione del 15 ottobre, i compagni della radio in particolare mostrano sempre delle lacune perché non riflettono sul fatto che il 15 ottobre è stata non un'esplosione di piazza, ma una guerra delle organizzazioni e dei comitati contro qualcun altro per far saltare quella manifestazione. E questo, andandoci a leggere l'elenco delle dichiarazioni pubbliche fatte sui siti, nelle assemblee, nelle riunioni prima della manifestazione del 15 ottobre, questo qui è un elemento che non si può sottacere, perché altrimenti si costruiscono delle analisi anche sociologiche, come diceva la compagna, che sono assolutamente insufficienti e non fanno giustizia invece del movimento antagonista, che ha sempre dimostrato in passato di avere un'intelligenza molto più complessiva e molto più ampia. Tutto il resto viene dopo, l'insufficienza di quella piazza viene dopo, le migliaia di persone che prima si scontrano e poi si difendono non si riproducono in nessuno dei movimenti sociali che si sono, diciamo, dispiegati nel corso dell'anno. E questo è un elemento del quale nessuno nessuno riesce oggi a mettere o a fare delle riflessioni, soprattutto dai microfoni della radio, e concretizzando sempre le analisi sulla repressione e sulla separazione buoni e violenti. Quando io dico che bisogna riflettere sulle modalità di sull'utilità di alcuni strumenti di lotta, è perché penso che la giornata di ieri, insieme alle tante cose che sono successe nell'ultima settimana, sono estremamente importanti, ma sono ancora delle cose di minoranza, delle cose di minoranza importante, perché a Roma i lavoratori erano 2.000, 3.000, più quelli che dicevo in mezzo agli studenti, ma non erano centinaia di migliaia come la crisi meriterebbe. E non è solamente un problema di convocatoria. Dai microfoni della radio, i compagni domenica scorsa si ponevano del problema del perché i lavoratori non riescono a essere intercettati o non riescono a unificare le rivendicazioni con quelle dei movimenti studenteschi o giovanili o più antagonisti, diciamo così. Probabilmente i compagni che formulano queste riflessioni dovrebbero costruire, a volte lo fanno, delle inchieste su qual è il livello della scomposizione sociale dentro i luoghi di lavoro. E allora, quando c'è un movimento, è giusto che, soprattutto quello degli studenti, questo movimento si autodetermini. I compagni e le compagne che appartengono alle cosiddette avanguardie hanno il compito però di costruire delle ipotesi future. Il movimento degli studenti, se non gli si danno gambe, finisce fra 3 mesi. Sono 35 okay. anni che è così. Perfetto, ti ringraziamo, okay. Hai detto tantissime cose, cercheremo insomma di rispondere. Grazie. Ciao. Allora, prima a voi la parola, volete dire qualcosa? No, sì, a me intanto un pochino sempre mi mette di buon umore sta lettura del 15 ottobre, perché l'idea che ci siano organizzazioni antagoniste che siano in grado di praticare quel livello di scontro e quel livello di estensione di partecipazione allo scontro rispetto alla mia sensazione di quella giornata, cioè dell'anarchia dilagante, di una partecipazione spesso più individuale che altro, insomma è più tranquillizzante. Non so tanto d'accordo sul fatto che questa roba non si sia più vista, nel senso che è vero che non c'è avuto una ricaduta quotidiana e capillare nei processi di contropotere nelle scuole, nei luoghi di lavoro, però io dico pure, insomma, quel compagno che interveniva lo sa meglio di me, perché anche lui ha trascorso diverso tempo nel nord Italia, e che insomma in Val di Susa invece quel tipo di composizione è stata e torna a essere protagonista. Mi pare più un pochino un problema di dove e come i compagni riescono a intercettare, accettare, essere interlocutori validi per un certo livello di rabbia, più che una colpa atavica di quella composizione, perché poi in Val di Susa, insomma, partecipazione anche di quella gente che stava a Piazza San Giovanni ci continua a essere, c'è stata anche nelle ore immediatamente precedenti a questa trasmissione. Ma a me viene da rispondere un po' più per quanto riguarda il commento sulle pratiche con cui si scende in piazza. Io immagino che si riferisca l'ascoltatore alla pratica del book block, forse anche al portarsi il casco in piazza, forse anche all'essere preparati a formare una testuggine del genere. Come rispondere? È chiaro che se uno ragiona in quel senso senza il senno di poi, perciò senza guardarsi indietro negli eventi di cui che hanno formato la nostra esperienza, è chiaro che il ragionamento è: certo, tutti parte il casco, allora c'è una provocazione, forse bisognerebbe scendere senza e cercare altri metodi. Però diciamo la risposta che mi viene più facile è il paragone con le piazze torinesi in particolare, che forse insomma sì, è un altro questore, altre pratiche, sì, forse sarà diverso, però in realtà ultimamente si stanno assomigliando sempre di più. Le piazze torinesi fino a 2 settimane fa sono sempre scese senza caschi, senza scudi, solo con lo striscione, e venivano ugualmente, basta vedere gli scontri del corteo spontaneo per lo sgombero della Verdi 15 di 2 settimane fa. Venivano caricate a freddo centinaia di teste spaccate, centinaia di ragazzi finiti all'ospedale pieni di sangue. Ora, a questo punto, insomma, lì basta vedere i video, i caschi, gli scudi non c'erano. A questo punto, appunto, mi viene da ripetere che gli scudi, i caschi, l'organizzarsi a fare un servizio d'ordine con una testuggine, sono tutta una serie di elementi che cercano, poi non riescono, vabbè, però cercano di preservare almeno la salute del corteo e di chi lo compone. Tant'è che poi il 14, che era una giornata nazionale, i nostri compagni medio universitari torinesi si sono fatti gli scudi, si sono portati i caschi in piazza. La sera ci hanno chiamato, ci hanno detto grazie ragazzi, in effetti ci avevate ragione. Allora, c'era Michele, volevi dire una cosa, se no dico io una cosa. No, io penso che sulla giornata del 14 sia stato detto in tantissime sedi, dalle sedi di movimento a Ora in Radio, sia stato specificato molto l'atteggiamento delle forze dell'ordine, che è sicuramente un dato molto importante della giornata. Però noi, quello che manca un po', è un elemento di autocritica anche rispetto a come si scende in piazza, a quanto ci rendiamo conto della reale possibilità che abbiamo di praticare determinate forme di conflitto, e queste determinate forme di conflitto che tipo di organizzazione di piazza necessitano. E anche mi viene da aggiungere quanto sia possibile oggi continuare a voler praticare un conflitto e una rappresentazione di questo conflitto in qualche modo. Quindi poi come le nostre pratiche di piazza e come scendiamo in piazza preparati per fare conflitto molto spesso, secondo me, eccedono troppo sul piano della rappresentazione di questo e sulla voglia appunto di voler dire che noi manifestiamo, che vogliamo fare conflitto, che vogliamo anche essere però creare consenso su più larga scala possibile. E questo penso che sia importantissimo sempre, però capire anche come forse il 14 novembre ci insegna, dovremmo capire dalla prossima volta scendiamo in piazza come organizzarci in maniera probabilmente differente. Penso, faccio un'autocritica, come sicuramente ci sia un'organizzazione che poi si è verificata insufficiente rispetto al dispositivo delle forze dell'ordine per tutelare la testa del corteo, ma come forse bisogna iniziarsi a interrogare come si tutela tutto il corteo e non soltanto la testa, di come ormai non possiamo aspettarci che se vogliamo arrivare in un posto, quello che al massimo possiamo ottenere è un piccolo momento di scontro che poi ci permette anche probabilmente di amplificare la notizia del corteo. Su questo dobbiamo interrogarci, su quanto vale la pena poi volerci spingere su queste dinamiche se poi non ce le sappiamo accollare in qualche modo. E su questo faccio un'autocritica anche su tutti, cioè anche mia, e quindi penso su questo abbiamo molto da crescere. Il tema, insomma, della fine, probabilmente della fine della mediazione, anche della particolarità di una gestione di piazza di un governo che è tecnico, di un governo che non, probabilmente non ha bisogno neanche del consenso di nessuno per continuare a esercitare il proprio potere, ci deve far valutare quale deve essere la nostra attrezzatura per scendere in piazza, quanto deve essere simbolica, quanto deve essere reale. E poi realmente, se dobbiamo magari smettere di voler praticare un qualcosa di significativo soltanto alla fine del corteo, probabilmente, no? Magari cercare di essere più imprevedibili. Su questo mi ricollego al 15 novembre a Torino, dove, a parte insomma risultati particolari, ci sono state delle cose, secondo me, delle forme di protesta e di conflitto poi dentro al corteo molto interessanti, perché sicuramente quello che non dobbiamo fare dopo il 14 novembre è ritornare alla sfilata, perché ce lo diciamo in varie sedi che questa pratica produce poco, ma cercare di praticare delle forme di conflitto magari dislocate durante il percorso del corteo, che vadano a sanzionare anche non soltanto i diretti detentori del potere, ma, come ci diciamo penso da tempo, il potere non è soltanto in quei palazzi. Allora, provo invece a rispondere io. Diciamo che la lettura che, insomma, prima compagno dava, io allora non sono molto d'accordo, nel senso che mi sembrano, vorrei prendere il 15 ottobre, il 27 ottobre, il 14 novembre un po' come esempi dei cortei più massa, diciamo così, più partecipati dell'ultimo anno. E mentre il 15 ottobre, insomma, dello scorso anno è stato un corteo cioè un corteo che è stato già convocato con una forte determinazione e volta, che si voglia dire oppure no, che si voglia pensare oppure no, volta comunque a una forzatura, a uno scontro. In cui cui i palazzi del potere in qualche maniera venivano chiesti della piazza, in quel caso non è stato accolto, diciamo così, un grido, e quindi è stata, diciamo così, secondo me, un corteo anche nella sua forma e negli scontri molto autoreferenziale, in cui comunque la rappresentanza anche di base, anche dei movimenti, eccetera, è stata messa da parte e detto: ok, noi vogliamo, la piazza vuole fare altro. Se i rappresentanti anche di piazza, anche di base, eccetera, non ci interessa, io così, la mia versione così l'ho letta, e così, e per questo anche molto spontaneismo. Io trovo anche, insomma, questa forma anche molto, appunto, spontaneista, singola, di non sapere bene anche alla fine dove andare e via dicendo. Il 27 ottobre c'è stato invece un corteo, appunto, proprio deciso, quasi in risposta, infatti, di rappresentanza, in cui ognuno stava con la sua bandierina, non c'era una persona, una, che non fosse scesa in piazza nella città di Roma, nello stesso percorso, nelle stesse, con la sua bandierina. E il 14 novembre è un'altra questione totale, nel senso che, secondo me, è risceso in piazza tutto quel parte della città che, appunto, non si riconosce più, o comunque neanche nel sindacalismo di base, neanche nelle rappresentanze più dell'avanguardia, che come veniva inteso prima. Però oggettivamente c'è un problema, e su questo sono d'accordo, perché andare nei luoghi c'è comunque una difficoltà di proposta. Cioè, allora, se la proposta non è quella, è di analisi, per cui insomma si è andati alla fine in bocca alle guardie. Quindi oggettivamente io trovo positivo il fatto che ci siano comunque 50.000 persone e più, che in qualche maniera si sono auto-organizzato un percorso, che hanno cercato di andare in luoghi che in questa città sono vietati, però oggettivamente è mancata una proposta. E questo sicuramente bisogna riflettere, nel senso, non è che si può pensare che insomma, che non so come dire, lo scontro può avvenire in maniera così spontaneista, però poi se è auto-organizzata allora non si può fare, perché sennò parte del movimento, poi fai comunicati contro. Insomma, bisogna in qualche maniera sicuramente riflettere su questo, perché oggettivamente, secondo me, la piazza è in questo momento assente di mediazioni, sia da parte istituzionale ma anche di rappresentanza più di base. Sì, a me, insomma, dalle riflessioni che faceva adesso Cristinina, anche dalle cose che diceva un secondo fa Michele, mi pare che, insomma, ci volevo arrivare prima della telefonata di Alessandro, ma ci arriviamo adesso, più o meno uguale, che questa scomparsa della mediazione, così, insomma, viene chiamata da questi microfoni, si traduca, insomma, nella consapevolezza che oggi forse l'idea ancora di ingaggiare il corpo a corpo con i reparti celeri a mani nude, perché per quello che mi riguarda, averci uno scudo e un casco in testa, rimane sostanzialmente essere a mani nude, è un'idea che non esiste, non può esistere più. Cioè, l'idea comunque è una contrapposizione in cui mettiamo in gioco solo i nostri corpi, in questi termini è un'idea che non è più aderente al livello di scontro che esiste. Ora, questo non vuole dire, e non può essere tradotto esclusivamente con armiamoci di più per andare in piazza, anche per far chiarezza ai microfoni di questa radio e non incappare in complicazioni ulteriori, ma sicuramente uno si deve immaginare dinamiche anche di sfondamento, dinamiche di contrapposizione, dinamiche di ingaggiamento dello scontro che non prevedano esclusivamente il fatto di andare a mani nude in fronte ai cordoni della celere. Se posso aggiungere qualcosa anche dal punto di vista politico, proprio in generale sul movimento studentesco, rispetto alla giornata del 14 si è chiaramente calcata molto l'analisi sul discorso delle forze dell'ordine, anche secondo me giustamente, per cercare di non affossare dopo quella piazza il movimento e cercare di rilanciare. C'era sicuramente bisogno di ottimismo dopo quella piazza per evitare di chiudere, diciamo, i giochi là. Però, diciamo, un'altra speranza che mi dà quella giornata, in qualche modo, è la fine un po' della figura del povero studente inconsapevole di contro chi si sta scontrando, diciamo. E, diciamo che forse questa presa di coscienza l'abbiamo avuta in maniera un po' brusca, vediamo anche se è avvenuta, diciamo. Però penso che magari mi piacerebbe che gli studenti in generale, come movimento, si esprimessero con consapevolezza rispetto alle forze dell'ordine, meravigliandosi, diciamo, assumendo come dato un atteggiamento diverso, ma non meravigliandosi, diciamo, della ferocia della controparte. E diciamo, secondo noi questo può portare sempre di più il movimento studentesco a diventare un movimento poi sempre più anticapitalista, perché secondo me poi in una presa di coscienza di cosa sono le forze dell'ordine, di cos'è la repressione, che la repressione rispetto a una protesta contro le misure d'austerity colpisce gli studenti che vanno a finire dentro per qualche giorno, ma è la stessa repressione che nei quartieri e nei territori poi nell'inasprirsi delle condizioni di vita porta maggiormente le persone poi a dover trovare modi diversi, diciamo, di vita, e anche maggiormente, diciamo, secondo me, anche da un vissuto che ho in altre situazioni oltre a quello universitario, secondo me anche a un accanimento della repressione anche dislocato, diciamo. Io volevo riprendere un'altra delle considerazioni che ha fatto Giorgio per telefono, intervento denso di cui forse ci siamo persi qualche pezzo, parlava insomma della sentenza Diaz, ci siamo soffermati. Io aspetta, prima che torniamo a questo, una cosa poco. Volevo dire però a quello che diceva Michele, che però in tutto ciò non si può neanche regalare tutti questi quantitativi di documenti e di teste alle forze dell'ordine, nel senso che comunque la tutela, l'autotutela, non è che insomma più denunce ci abbiamo e più... no? Più teste rotte si hanno e meglio è, insomma, su questo bisogna in qualche maniera capirlo. E poi sì, io direi che parliamo della Diaz e così concludiamo. Sì, a me l'intervento di Giorgio mi faceva venire in mente una trasmissione serale sulla rete di La 7 in cui interveniva l'allora ministro della gioventù Meloni, che in risposta insomma al giornalista Forcaiolo, che gli chiedeva come mai, era il 14 dicembre del 2010 per dovere di cronaca, come mai la polizia non fosse stata in grado di fronteggiare adeguatamente questi barbari che l'hanno assaltata. Il ministro della gioventù Meloni diceva: la polizia italiana è afflitta dalla sindrome G8, no? C'ha questa paura insita di dare qualsiasi manganellata per poi trovarsi sbattuta in prima pagina. Ora, ammesso che questo sia mai esistito, sicuramente le sentenze della primavera e dell'estate scorsa questa roba l'hanno completamente cancellata, che mi pare un pochino quello che diceva Giorgio molto molto molto puntualmente, che in maniera più o meno diretta quelle sentenze iniziano ad avere degli effetti molto molto concreti. Volevo solo aggiungere che riguardo all'inconsapevolezza o meno degli studenti e delle studentesse delle scuole medie e superiori, c'è da dire che da molti anni non si vedeva una marea di occupazioni delle scuole come quella che si vede in questi giorni, dove veramente chi non aveva occupato dopo il 14 novembre scorso a quel punto ha fatto veramente afforzato e occupato anche in risposta a quello che era successo nella piazza. Occupare una scuola non è uno scherzo, non ti spaccheranno la testa, ma mi auguro di no, ma pure questo è da vedere, ma comunque ti espone a dei problemi abbastanza seri. Su questo devo dire che molti docenti si sono schierati praticamente apertamente contro l'illegalità, perché poi c'è il discorso illegalità e violenza, che sono due cose comunque diverse, che invece si tende ad assumere come una sola unica categoria. Io rispetto per esempio a quello che sta succedendo con il decreto di stabilità, col varo della ex Aprea, nei riguardi soprattutto della scuola, che arriva dopo 20 anni di attacchi feroci dal centro-sinistra e dal centro-destra, mi sarei aspettata che a questo punto fossero proprio lavoratori e lavoratrici della scuola che occupassero le scuole, semmai. E in questo volevo dire appunto, prima anche Alessandro diceva, nel senso che Giorgio aveva anche detto questa questione del, cioè c'è uno sciopero generale e i lavoratori non stavano in piazza. Questo non si può imputare obiettivamente e oggettivamente agli studenti. Pure se un operaio poi è stato arrestato con noi. No, ma infatti io penso che poi io sono convinta che non c'erano le organizzazioni, ma singolarmente le persone comunque in piazza ci stavano. Cioè, voglio dire, pure io ho scioperato, c'erano molti da radio che hanno scioperato e via dicendo. In questo volevo concludere con questa questione della Diaz. Non soltanto sono stati, diciamo così, condannati appunto soltanto i vertici, ma bisogna ricordare che dell'entrata dentro la scuola Diaz più di 300 persone, più di 300 poliziotti, più di 300 massacratori, non è mai stato più di, il numero non me lo ricordo, sto dicendo sento una baggianata, però quantitativi, di, insomma numeri molto alti non sono stati mai identificati, perché non sono stati riconosciuti i nomi sui verbali, perché non sono stati dati i nomi, quindi c'è una sorta di diciamo così di copertura e quindi in qualche maniera di libertà di far fare al singolo poliziotto quello che si vuole all'interno della piazza. Io immagino che dei tanti anche condannati per lesioni piuttosto che per falso durante la scuola Diaz stavano in piazza il 14 novembre, perché le modalità con cui molte modalità insomma le abbiamo ritrovate, una modalità che non riguarda soltanto i cortei, perché per me l'entrata a rave alla periferia di Milano in quel modo era molto simile a quello che è successo alla scuola Diaz, quello che è successo a Brescia il 14 novembre, di cui insomma molto, molto poco si è parlato, sono modalità e un modo ormai della polizia di stare in piazza abbastanza conseguente a quello che è successo a Genova, e avviene non a caso dopo due sentenze esemplari, una che ha dato 14 anni di carcere fino a 14 anni di carcere a 10 manifestanti per devastazione e saccheggio, quindi per aver rotto una vetrina, aver sovvertito l'ordine, quindi aver accusato loro di aver sovvertito l'ordine pubblico a Genova, di cui due persone, lo ricordiamo ancora, sono in carcere, e aver condannato dei vertici che però in qualche maniera sono stati comunque difesi da tutto l'apparato più alto della polizia. Gianni De Gennaro, lo ricordiamo ancora, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Monti, e aver lasciato nella totale copertura, quindi si sono sacrificati 3-4 vertici, 10 vertici, 20 vertici per aver lasciare il singolo poliziotto poi a poter, nella copertura più generale, nel poter fare quello che vuole in piazza. Non, insomma, io non me lo dimenticherei, ma come ci siamo ancora noi che avevamo 30 anni a Genova, anche i poliziotti, insomma pure 40, comunque i poliziotti anche non è che sono stati in pensione, sempre quelli, so io personalmente, insomma ne ho riconosciuto uno che stava lì e che, tra la cellula, insomma tra il reparto mobile, che è stato coinvolto per esempio nel processo per Gugliotta, lo ricordiamo, il giovane che fu fermato il 5 maggio del 2010 lontano dallo stadio olimpico durante la partita Roma-Inter, stava sul motorino, è stato pistato di botte insomma in maniera selvaggia, ed è stato possibile il suo essere scagionato solo ed esclusivamente perché c'era un ragazzo, qualcuno che dal balcone riprendeva col telefonino quello che stava avvenendo. Sono stati inquisiti per quella vicenda 9 poliziotti e sono stati anche condannati per arresti arbitrari, violenze, falso, e appunto alcuni di questi stavano in piazza il 14 novembre, quindi anche su molto incazzati, anche con una modalità, insomma io ho potuto vedere questa cosa perché stavano anche vicino a me, con una modalità che personalmente comincia ad essere anche abbastanza fastidiosa, e dovrebbe il movimento in questo sottrarsi sempre di più, con richiami personali a nomi personali dei singoli militanti, con minacce ad personam, con modalità appunto stile muretto, che avevamo visto e gli studenti avevano già denunciato il 5 ottobre scorso, quando sono stati ripresi mentre gli dicevano a cretino deve andare a casa, e così insomma il 14 novembre sono stati ulteriormente portata avanti. Sicuramente non bisogna parlare di quanto è brutta e cattiva la polizia italiana, insomma lo sappiamo altamente, però avere un controllo maggiore su quello che sono gli apparati, i dirigenti e gli apparati che della celere, del reparto mobile in piazza, ha una forza, insomma conoscere il nemico ha sicuramente una forza, da qui poi tutti i vertici che ci sono, che però secondo me sono in questo caso insomma le varie ministre, cancellieri, via dicendo, insomma sono abbastanza li trovo abbastanza insomma messi un po' da parte. Qui si tratta che sono stati lanciati lacrimogeni dalla stanza della ministra stessa, insomma va bene. Io con questo direi che concludiamo, perché ci abbiamo ancora mezz'oretta prima che passiamo all'altra trasmissione per parlare di Gaza. Vai. Vabbè, in conclusione io ci tengo a ricordare i prossimi, bravo, ricorda gli appuntamenti, paio d'appuntamenti. Innanzitutto lunedì nelle scuole e nelle università un'azione, una giornata di mobilitazione, di solidarietà ai fermati e feriti di mercoledì scorso, ma anche di rilancio della giornata del 24 novembre, che ci vedrà di nuovo invadere le strade di Roma. Nel mezzo, martedì, un'assemblea pubblica dove si confronteranno le realtà di studenti medi e universitari. Il pomeriggio alle 17 in una scuola ancora da definire, vi invitiamo a restare collegati in rete, dove troverete il luogo al più presto. Aspetta, non c'è il microfono aperto. Nell'attesa, oggi pomeriggio a Piazza Montecitorio alle 17.30 in solidarietà con Gaza. Ciao a tutti, certo, e tutte. Diciamo che sicuramente, insomma, c'è qualcuno che a Montecitorio ci arriva.